con la calma di strada, dentro ad una realtà sfocata. Giro la canna, respiro di ansia, aspiro di pancia, espiro con l'asma. Tu non vedi chi sono, io non so più chi sono, io non chiedo perdono. Se vivo a modo mio resto perso nel vuoto, mentre mi mostri una macchia d'inchiostro. Cosa ci vedo? Tu credi un mostro, mentre io vedo una macchia di sporco. Come ti chiami? Non mi ricordo. Come la tipa la mattina dopo, sei tu che resti confuso, perché se in fondo vorresti il mio posto. Dottore, non ti rispondo, fatti una vita e guardati il mondo. Chi mi ha chiamato con il cognome è sempre stato un fame stronzo. Dammi un altro foglio, un'altra notte senza sogno, ma non fermi questo mostro solo con un'altra pillola. In cella resto spoglio con la mente in corto, mentre smarco un altro giorno. Ho in testa un ritornello che fa questa è la mia insanità. È la voce della mia anima. Chiudo gli occhi, prendo fiato, ricomincio da dove ho lasciato. Ogni colpo che ho sferzato di sangue ha dipinto il tuo corpo sfregiato. Ho pregato, ma non mi ha mai ascoltato nessuno. Mi perdo nel fumo che filtro e consumo. Con le spalle al muro, la mente digiuna, abbraccia il lato scuro. Ma per noi sono giorni ordinari, se scoda i binari, colmiamo i divari. Io so solo che noi siamo animali, affrontiamo puntuali le schiere rivali. E per questo mi ami, sono il braccio del karma. Mentre braccio quest'arma, tu manda, mi stampa e mi trovi in mezzo al caos con i tratti della calma. Si riscalda l'atmosfera, sto sotto Valchiria nella nuova era. Insieme a Tekkido, se ricordo spedito, niente più com'era. Dammi un altro foglio, un'altra notte senza sogno, ma non fermi questo mostro solo con un'altra pillola. In cella resto spoglio con la mente in corto, mentre smarco un altro giorno. Ho in testa un ritornello che fa questa è la mia insanità. È la voce della mia anima. Sei anima, non mi mentire, tra buio e la luce ora voglio capire. Perché queste voci si fanno più forti se io non le voglio sentire. Tra figure astratte non posso calmarmi, provo a toccarle attraverso i palmi. Chiuso nel regno dell'ansia, mi rende suo schiavo, le vuole tentarmi. Amara follia, adesso mi domina, esamina, poi contraddice ogni logica. Vomito sue percezioni in composizioni di arte metodica. In questo disordine scrivo su carta che la mia mente di notte si plasma. Colmo ogni dubbio, rannuncio le sole a rendere sproporzionale ogni dramma. Con la realtà il contatto si accorcia, qua è tutto palpabile, instabile. Se ogni contesto si muta in angoscia, risiede nel cuore, su turo la sconcia. Sedute spiritiche, oniriche, liriche, innanzi a qua tutto poi verte. Trascene critiche ciniche, che anche suo simile in menti poi limpide e flette. Immerse in essenza, aspetto la notte, raduno l'immagine di un mio ricordo. Un saggio che disse che folle chi parla la luna, ma ancora più stolto chi non le dà ascolto. Dammi un altro foglio, un'altra notte senza sogno, ma non fermi questo mostro solo con un'altra pillola. In cella resto spoglio con la mente in corto, mentre smarco un altro giorno. Ho in testa un ritornello che fa questa è la mia insanità. È la voce della mia anima.